Preparate la colazione e mangiate tanto! Perché stasera ceneremo nell'Ade! 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca. Un casino, che successo? Sono uscita su tutti i giornali, minorenne con Berlusconi, lui mi ha detto cerca di passare per pazza, salvami, è venuto da me, mi ha chiamato oggi, lui mi ha chiamato la sua segreteria due volte, dobbiamo trovare una soluzione, un caso che supera quello della Daddario e della Letizia, perché tu eri proprio minorenne. Ma tanto il primo novembre c'è il compleanno. Il primo novembre faccio il compleanno, ma non c'entra niente. Quando tu sei minorenne, anche se passa, sei stata una minorenne a casa sua. Niente, lui mi sta chiamando per dirmi ti do quanti soldi vuoi, l'importante è che passi per pazza, passi per sparacazzate, ma non devi raccontare la verità, e mi ha detto ti do tutti i soldi che vuoi, ti copro in oro, però non dire niente. Tutto svanito. Berlusconi assolto definitivamente dalla Cassazione ieri alle 23:36 minuti. E Ruby, no, Ruby Tuesday, Ruby, fine. Il bunga bunga, le intercettazioni, le telefonate, la concussione, la prostituzione minorile. Berlusconi non sapeva che Ruby fosse minorenne quando era a casa sua, quindi prostituzione minorile, via, puff, assolto in via definitiva. Berlusconi non ha fatto la concussione quando ha chiamato il capo di gabinetto della questura di Milano dicendo di affidare Ruby a Nicole Minetti. Puff, via, tutto scomparso. Assolto e ora l'urlo nella notte, raccontano sul Fatto Quotidiano di Silvio Berlusconi, ora chi mi ripaga di tutto quello che è successo. Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui, sono le 6:32 minuti, c'è il nostro Peter Bescapè in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il Parlamento, dai, apriamolo subito. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Parlamento. Eh sì, il Parlamento può aprire con questa notizia. Oh, quando si dice i giornali sono vecchi, oggi Repubblica, ma io avrò un'edizione evidentemente che non è stata ancora aggiornata. Per la verità anche quella del Sole 24 Ore mi è arrivata, con attesa nella notte la sentenza, hanno chiuso un po' prima. E invece niente, assolto. Cara Paola Saluzzi, buongiorno. Come stai? Buongiorno, grande Milan, molto bene. Molto bene. Molto bene, buongiorno a tutti, a tutto il mondo, buongiorno, assolto. Va bene, si vede la benedizione papale ti ha fatto bene allora, evidentemente. Ti vedo, ti sento rinvigorita, non rinvigorita. Ma non ce l'abbiamo la sigletta per la Saluzzi? Sì, ce l'abbiamo la sigletta, perché è sempre annunciata. 2015, ecco. Evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola. Oh. Con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, sì. Special guest. Paola Saluzzi. Ma e sì, altri quecisti di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Va bene, ma va bene. Come si fa? Non è vero, i quecisti sono sempre i pilastri, sì, fondamentali, i, sì, muri, sì, portati, ma come si fa a non essere di buon umore sentendo tutto ciò? No, effettivamente non tutti possono avere una sigla così da potere. Sì, ma, vabbè, ma te l'ho mandato, grazie, la benedizione papale? No, te la devo mandare in audio? No. Ma risentiamola, dai. No, no, ma risentiamola, la benedizione papale, ce l'abbiamo. È così bella. Dai, allora, intanto, dai, fammi salutare Luca Dini, direttore di Vanity Fair, così, perché una benedizione papale va a tutti. Buongiorno. Luca, buongiorno, buongiorno, come va? Buongiorno. Una benedizione che arrivi a tutti, anche se... Per dire buongiorno. A tutti, a tutti. Buongiorno, sono Francesco. Mi sono svegliato presto alla mattina e ho sentito questa notizia della signora Saluzzi, la rossa. La rossa del mercoledì. Saluto lei, perché degli altri due non mi interessa niente. Saluto che si è sposata, signora Saluzzi. Evviva la famiglia, però faccia la brava se no se prende un pugno. Che il Signore la benedica, la Madonna la custodisca. Un po' aggressivo questo Francesco, ha dei momenti un po' così. È un ragazzo combattente. Bene, abbiamo preso anche la benedizione, io sono... Contentissima. Caro direttore, è tutto svanito, è tutto finito, è tutto passato, eh? Paginate, no, di intercettazioni, no, cosa rimane? No, allora, premetto, bene così, non è finita perché c'è l'altra, insomma, c'è Rubiter, questa inchiesta, sì, sì, eccetera. Io ribadisco quello che ho già detto, ci sono, questa è giusto così. Poi ci sono invece sentenze non giudiziarie ma politiche che nessuna Cassazione può cancellare. E quello che è successo, far votare sulla nipote di Mubarak, quello che viene fuori sui soldi, un uomo politico non ha, cioè, deve vivere in modo trasparente, sì, e non può essere ricattabile. E il problema di Berlusconi è che è stato e forse è ancora ricattabile. E questo è un problema politico, non giudiziario. Sì, vabbè, ma poi voglio dire, le pagine sono state scritte. Pare che nella difesa in Cassazione l'avvocato Coppi abbia detto e abbia ammesso che ci fosse un giro di prostituzione a casa di Berlusconi, non lo contestiamo neanche noi, no? E quindi c'è tutto il filone Tarantini. Ma per carità, non è che vogliamo fare i processi mediatici. Il punto è se il nuovo politico può essere in questa situazione. Secondo me no. Secondo te no. Poi dal punto di vista giudiziario effettivamente si può capire anche la rabbia di Berlusconi a dire dopo come dire tutte le intercettazioni, alcune abbiamo sentite, finite ovunque, giornali, televisioni, uno sputtanamento mondiale, dai, diciamolo francamente, e adesso che rimane, cara Paola Saluzzi? Rimane. Non è una novità, però, sì, perché, sì, cioè, sì, chiaro, le intercettazioni, no? Sono sempre, se ti ricordi, Valletopoli. Poi il problema, ci sono anche persone più fragili e più vulnerabili che sono state sputtanate. Lo so, però insomma essere in quella situazione, sì, non è facile, però mi rendo conto che Berlusconi c'ha la corazza. Però Paola Saluzzi, fa bene a essere arrabbiato il Berlusca? Beh, è una reazione che avevamo comunque messo in conto con le varie possibilità, insomma, nello scacchiere, che poi era abbastanza facile, bianco o nero, o rosso o nero, forse dovrei dire, questo è un omaggio, sì, un omaggio al Milan in quanto tale, e di ieri c'era anche ovviamente lo sdegno, la rabbia, non si torna indietro su tutto quello che è accaduto, ci aspettavamo ovviamente anche questo tipo di reazione. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti. Tante cose, la Cassazione parla ed è come dire, sono parole di ferro, anzi scolpite nella pietra. Adesso andiamo avanti con tutto il resto, con il paese, sì, da cambiare. Sì, con la politica che litiga. C'hanno il mal di pancia, io ho scritto su Twitter, hanno la bua, la pancina, i partiti, poverini. Poverini hanno il mal di pancino, e Forza Italia hanno il mal di pancino, e Civati e Bersani hanno il mal di pancino, e nel Movimento 5 Stelle hanno il mal di pancino, questi partiti. Facciamo che andiamo dritti, filati, che ci sono... tanta di quella roba da fare, ma tanta, ma no, tanta, ma infatti ma tanta... Bicarbonato. Nella Lega c'hanno il mal di pancino, c'è... Lì proprio. peperoni mangiati la sera, ma ieri sera... e si sono riproposti. Ma ieri sera è successo di tutto, a parte la soluzione a Berlusconi, è ufficiale che Salvini ha detto Tosi è fuori dalla Lega, decade come militante. Tosi è andato da Lilli Gruber e quell'intervista evidentemente è rimasta indigesta all'ora di cena a Salvini, ha detto decade da militante, e Tosi ha detto e lui è Caino che si traveste da Abele, capito caro Luca Dini? Finisce così, va bene, ce ne faremo una ragione, dici. Presidente, non è che sembri molto Abele però, No, effettivamente, cos'è? Tu dici è Caino travestito da Caino, L'agnello non c'è, dai l'agnello no. Dove dato, Matteo assist per la prossima felpa, certo. Caino e Abele, agnello, si fa una felpa di agnello con scritto Abele. Matteo Salvini, ti abbiamo dato un'idea, tu che ci ascolti spesso alle 6:30, se sei all'ascolto, caro Luca Dini dice che tu sei solo Caino. Dice che fatica a vedere la Bele che c'è. Non è travestito, dai. No. Ma non è vero, abbiamo solo dato un suggerimento per la felpa. Su, un suggerimento per la felpa. È un suggerimento chic, è una questione di moda. Va bene. Comunque i partiti litigano, ma ieri c'è stato allora qui un straordinario Jerry White, Paola Saluzzi, tu sai che è Jerry White, stava a Sandir, certo, Gerardo Bianco, grande uomo paludato della balena bianca, il fratello di Barry White, Jerry White, che vogliamo riproporre perché la nostra Elisabetta Fusconi gli ha chiesto, siccome quelli del Movimento 5 Stelle e la Lega vogliono tagliare i fondi agli ex deputati che vanno a Roma, e sentite la mitica risposta di Jerry White. Il vitalizio medio di un parlamentare dei 3.500 euro sono persone che hanno superato i 70 anni, domani devo andare a Napoli, il 25 mi hanno chiesto di andare a Cosenza, vero? Dovrei praticamente andare alla mensa di Sant'Eustachio, vero, per soddisfare le richieste. Con 3.500 euro una persona che insomma, come dire, ha oltre 70 anni vive decentemente, punto, non può sottrarre nemmeno mezzo euro per fare le cose per cui pure è richiesto. Capito Luca Dini, ma io mi rendo conto, ma in che mondo vivono? Uno di 3.500 euro, se gli togli un euro finisce alla mensa di Sant'Eustachio con le pensioni a 600 euro, a 700 euro. Ma sono proprio... Uno che dice così, ce lo manderei un po' di default alla mensa. Un po' di default, così, per vedere l'effetto che fa. Sì, perché non l'ha mai provata, evidentemente. Non l'ha provata, e voglio dire, come non si augura nessuno, insomma, non è bello finire in fila alla mensa, ma Paola Saluzzi, a te però il compito. Però ogni tanto farebbe bene... Scusa, direttore? No, dici. Ma dovendo scegliere chi mandarci. Insomma. Ah, ecco, tra Jerry White e uno che ne ha bisogno veramente, è meglio Jerry White, così fa un po'. Il grande stile British del nostro Luca Dini, giustamente. Ogni tanto bisognerebbe invece andare, perché poi torni a casa, ti metti fronte a terra, ringrazi Dio del fatto che tu non ne abbia bisogno, non hai bisogno perché hai fatto la tua vita, ma molta gente che è finita in fila ha fatto comunque la propria vita, e poi qualcosa è andato storto, sono stati poco fortunati, ma farebbe bene. Mm-hmm. Perché così vedi da vicino, per esempio, chi con 500 euro al mese, una volta si diceva 500 mila lire, ed erano niente, ma ti sembrava ancora di poter avere dei figli che ti volessero molto bene. Perché così con le tue 500.000 lire potevi tentare di campare, magari facevi anche qualche regalino ai nipoti. 500 euro oggi ce le hanno le persone di 70 anni? Vabbè, quando le hanno? Ma infatti, allora, ma un po' di silenzio. Ma no, ma, 3.000, ma come si fa a dire a 3.500 euro dire non mi posso togliere neanche un centesimo, se no devo andare per un fatto familiare, non lo so, probabilmente ci saranno dei problemi in casa, perché non posso immaginare altro. Già uno che dice se no finisco la mensa per soddisfare le mie esigenze, già uno così in mezzo. sa proprio fa una brutta fine. Ah, ma non diceva soddisfare chi mi vuole povero, forse? No, proprio soddisfare il genere. Devo andare. Sai cosa mi ricorda? Posso fare un flash sportivo? No? 1982, campionato del mondo, vinciamo campione in Spagna, straniciamo, cioè, campione del mondo. Nando Martellini, campione del mondo. Paolo Rossi, già acquisito dalla Juventus prima del mondiale, e Marco Tardelli fanno tutta una questione perché non hanno ottenuto l'aumento del loro contratto, no? E dicono noi abbiamo delle famiglie. E gli operai di Napoli, di Bagnoli, sì, gli mandano rispettivamente un vaglia postale di 10.000 lire. Non è male, Luca, dimmi, perché non lanci? Io ero una ragazza, mi sono vergognata da morire, ho detto Madonna, che vergogna, come si saranno vergognati. Potrebbe essere un'idea, non so, Luca, dimmi, lancia una bella colletta per Jerry White. No, direttamente buoni pasti di Sant'Eustazio. Giusto, dei ticket restaurant per Jerry White, potrebbe, così non va la mensa di Sant'Eustazio. Jerry. Per la mensa, proprio c'è il buono per la mensa di Sant'Eustachio. In compenso anche Mastella, che pensate un po', torna alla carica, si allea coi pensionati per rilanciarsi alle regionali in Campania, e al Fatto Quotidiano dichiara questo, perché gli chiedono: vabbè, ma a proposito dei pensionati, lei quanto prende di pensione? 10.000 euro? Onorevole, lei percepisce ancora 10.000 euro di pensione oppure è cambiato qualcosa? Quanto percepisce? Come, lei chi è, scusi? Io capasso di Fatto Quotidiano, io penso che 10.000 euro per la pensione di quella come pensionato che ha fatto 40 anni di attività parlamentare. C'è comunque una disparità, insomma, certo c'è la disparità, pur se prende, quando andrà in pensione Marchionne sarà dispari rispetto agli altri. Quanto guadagna il suo direttore? Questa era molto brunettiana, Luca Di. Lei quanto guadagna? Non te l'ha mai chiesto, Brunetta? Te non hai mai avuto capo? Quanto guadagni? Per fortuna no, però insomma la mia risposta è che un dipendente privato guadagna quello che guadagna non viene dalle tasche dei contribuenti. Questo sì. Però insomma torna la questione di Mastella che torna a 10.000 euro. Però io sono un attimo qui su Vanity Fair, devo fare... Allora, c'è un articolo il cui titolo è Generazione YouPorn, cara Paola Saluzzi. Sì? Cosa riti? Perché è firmato da Gabriele Romagnoli. Conosci? Sì. Conosci. Il marito. E come mai ha fatto un servizio su YouPorn? Perdona un po', insomma. Sono quelle cose. Scusa, cara, mi devo documentare. Rispondi direttore. Direttore, come mai hai incaricato il marito di Paola Saluzzi, Gabriele Romagnoli, a fare un servizio su YouPorn? Queste cose. Perché siamo osservatori della realtà. Ecco. Immagino riunione di redazione. Chi si vuole occupare di fare un pezzo per osservare la realtà YouPorn? Nessuno di noi l'ha mai visto. YouPorn, però, cos'è YouPorn? Che dobbiamo fare? Ma meno male che siamo in radio, così arrossisco da sola. Ecco, esatto, arrossisci da sola, che tanto in radio, ti svelo un trucco, non si vede. Ullala, evviva, vai. Vabbè, dai, andiamo a sentire la segreteria telefonica. 24 mattino. Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Alessà, di prima mattina ci fa incazzare con rabbia dure, ci fa sentire ste fasce di mele cotogne che rubano. Il ministro della difesa greco ha minacciato che se non li aiutiamo ci riempiranno di migranti, ma noi abbiamo subito risposto che per ritorsione gli mandiamo buon anno. Oh, oggi si è avuto un fatto importantissimo. A Genova sono arrivate 10 milioni di grill, tutti quanti provenienti dalla Cina. E allora sicuramente si mangeranno il grill genovese, state per buono. sono sveglio di già, sono sveglio di già per sentire Alessandro Milan. Va bene, è l'ora dei matti, liberi tutti. Ma scherzi, sono quei matti che si abbracciano per, appunto, invece di mettere una camicia di forza gli dai un abbraccio contenitivo e li stringi al petto. Con affetto. Certo, viva i matti. E, allora, vabbè, preparati tutti una colletta oppure i ticket restaurant per Jerry White. Dunque, c'è il brunetta del giorno. Ah, il brunetta del giorno, poi Luca Dini pensare di scamparla col dal brunetto del giorno? Ma sì, però. Se tu speri tutte le volte, ma io tutte le volte te lo sottopongo il brunetto del giorno. Eccolo qui, brunetta, che gli ha detto a Repubblica in un'intervista: Forza Italia divisa, io ho vinto, Berlusconi ha vinto Berlusconi. Ecco. State facendo un grave errore, signor Presidente del Consiglio che non c'è. Porterete la responsabilità storica di una grande occasione perduta. Per questo diciamo no. Con semplicità, no. Il vostro sì è distruttivo, rischia di aprire. Signor Presidente che non c'è, è bellissimo, lo chiamo così, Lucarini. Signor Presidente del Consiglio che non c'è. Quando non è in aula, che c'è, Paola? No. No, volevo dire una cosa. Sì. Non ti sentiamo più, dove sei finito? Aspetta che non ti sentiva più. No, scusa. Sì, disegno di legge tra affido e adozione. Sì. Discute oggi in Senato, no, volevo dire anche per una cosa che riguarda tanta gente, tanti genitori, tante persone che hanno bambini in affido e vogliono trasformare tutto questo in adozione, speriamo che vada bene. Così era per contrastare, per dire una cosa in più. Per dire, per dire che ogni tanto si occupano anche di cose che possono riguardare la gente. Ieri c'è stata grande discussione, era fortemente preso da questo argomento. Ecco, però hai portato un esempio pratico. Cosa interessa di più alla gente? Le riforme importanti, per carità, il nuovo Senato, oppure una cosa concreta come quella che hai raccontato tu. Si discute anche questo, ecco, questo volevo dire. No, infatti. No, hai fatto bene a ricordarlo. Io qua... Devo rispondere? Sì, certo. Vorrei usare le parole di quell'ascoltatore, mi è piaciuta molto. Facce di mele cotogne, molto bello. Sì, effettivamente facce di mele cotogne non è male. Perché devi andare a ricordarti come sia fatta la mela cotogna. Sì, tutta un po' bitorzoluta, no, tutto un po'. E così, come la faccio? Mela cotogna, urca, com'è la mela cotogna? E tu vai a... Sì, è tutto un po', come dire, un po' bislacca, storta, così. Un po' così gibbosa, ecco. Sì, diciamo fa delle ottime mele torte di mele con la mela cotogna. Sì, però esteticamente non è la migliore delle mele al mondo, ecco. Allora io qui il numero di Vanity Fair, chi sono i nuovi re di Hollywood? Che vuol dire? Cioè quelli che hanno trionfato, la nuova generazione di attori, caro Luca. Esatto. Cioè basta i Robert De Niro, basta gli Harrison Ford. Se riteniamo, però tu sei già ancora quella precedente. io sono due indietro. Basta Brad Pitt. Basta. sono un po' antico, sono un po' Ashley. Ecco. Buster Keaton. No, dai, i predatori dell'arca perduta. almeno i predatori del Taxi Driver, almeno ecco quella generazione sì, lì. Sì, certo. Ne ho saltate un paio, ne ho saltata una. E chi sono i nuovi, vabbè, quelli che hanno vinto adesso gli Oscar? Sì, ce ne sono anche due che hanno vinto, ce n'è uno che ha vinto l'Oscar lì dentro, ma soprattutto sono quelli che erano poco riconoscibili fino a un anno o due fa e adesso invece no. Lo so che tu non li riconosci. Io non li conosco, ma io non faccio testo, notoriamente. Sono in copertina di Vanity Fair, sono generazione. Fammi vedere a chiedere notizie su generazione YouPorn, va? Questa cosa di YouPorn adesso ne abbiamo instillato un piccolo tarletto, dice. Scusa Gabriele, un caino travestito da bene. Sì, esatto. Scusa Gabriele, volevo dirti, ma questa settimana mi hai detto che ti occupavi di una cosa noiosa per Vanity Fair. Adesso fammi domandare. Ecco, come ho scoperto che insomma noiosa proprio.

Ecco, questo è il nuovo video dell'orrore dall'ISIS. Riguardo alla cronaca, invece, vi segnalo sulla stampa una bella intervista a Camilla T. Non si qualifica col cognome, 22 anni. Chi è costei? È colei che ha donato gli ovuli per donne che non possono diventare madre. Ha 22 anni, fa l'universitaria, dice è stato un gesto di solidarietà. La polemica è scoppiata perché ci sono state alcune interrogazioni parlamentari a dire se questa ragazza ha donato gli ovociti in cambio di soldi è un reato. Camilla T dice sì, faccio parte del gruppo di ragazze che hanno donato gli ovociti per aiutare le donne sterili in cura alla clinica Almares Fertility. Perché l'ho fatto? Volevo rendermi utile, volevo aiutare chi vuole diventare mamma e da sola non ce la fa. Io arrotondo anche con un lavoretto part time, ma la donazione non l'ho certo vissuta come un lavoro, come un'opera di bene. L'ho vissuta così, tanto più che il guadagno è stato giusto un rimborso spese. In realtà si è scatenato il putiferio, si sono scatenate le polemiche, c'è anche un esposto in procura, un'interpellanza parlamentare da parte di Eugenia Roccella che viene intervistata dalla stampa e dice vorrei che fosse chiarito che questa studentessa come le altre non siano state pagate, perché se fosse così, cioè se ha ricevuto dei soldi, è stato commesso un reato essendo vietata dal nostro paese la commercializzazione di ovociti. Trovate sulla stampa, ma veniamo al momento conclusivo. Quello della carta costa, quello dell'articolo più inutile a mio insindacabile giudizio scovato sui giornali, oggi un'intera pagina di Thomas Leoncini e saltiamo sul Fatto Quotidiano, che sul Secolo XIX, eccolo qui il Secolo, ci sono i consigli del dietologo dagli Stati Uniti, sentite i consigli, si dimagrisce con la psicologia, le forchette le posate piccoline, i bicchieri per il vino più stretti, i piatti piccolini, così mangiate meno, no? Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi sul Sole 24 Ore, cari ascoltatori, c'è un bel profilo di Alberto Negri sul generale Khalifa Haftar. Chi è? Beh, questo generale è colui che è proclamato comandante della Cirenaica, cioè colui che è a capo di fatto del governo internazionalmente riconosciuto in Libia, a Tobruk. E lui chiede una cosa molto precisa all'Italia: armateci, basta l'embargo sulle armi in Libia, dateci le armi e noi provvederemo a sconfiggere l'ISIS qui in Libia. Allora, voglio salutare subito Massimo Fini, buongiorno, giornalista, scrittore. Ciao Massimo, come va? Ciao. Parleremo poi anche del tuo libro, bellissimo, sì. Libro che consiglio a tutti, si intitola Una vita, e tra poco poi più avanti ne affronteremo la questione. Però voglio subito farti una domanda, tu le daresti le armi a un libico, in questo caso al generale Haftar, non so se... Ma io lascerei che cioè tutti gli interventi occidentali, dico dal 2001 a oggi, fino all'ultimo in Libia, sì. E si sono rivelati non solo non risolutivi, ma hanno peggiorato la situazione e hanno creato situazioni boomerang, cioè situazioni anti-occidentali. Quindi direi di no. Direi di no, perché ripeto, l'esperienza ci dimostra che ogni nostro intervento diabolicamente si risolve contro di noi. Però che fare della Libia? Tra l'altro tu lo sai che c'è qui, ti ascolta, ed sì. È nostro ospite, un leghista di quelli anomali, di quello che è molto, molto rissoso spesso, Gianluca Buonanno, buongiorno onorevole. Buongiorno Buonanno. A voi. Eurodeputato. Sai Massimo Fini che Buonanno, non so se hai saputo, è andato in Libia, è uno dei pochissimi, certo con le bandiere della Lega Nord e della Lega Nord e con un Kalashnikov anche a tracolla l'hanno fotografata. Lei l'ha conosciuto Haftar, cioè l'ha incontrato? Sì, ho anche le foto, l'ho incontrato l'altro ieri, sì, e ho avuto un colloquio di un'oretta con lui e mi ha fatto un'ottima impressione. E perché dovremmo armarlo? Ma lui ha spiegato correttamente, io adesso sono ad Amsterdam e sto per andare a Strasburgo e oggi in Parlamento porterò un suo messaggio, mi ha dato un suo messaggio personale al Parlamento Europeo. Ce lo può anticipare? Sì, nella sostanza lui dice questo, quello che già anche lei ha anticipato, se non c'è, se rimane l'embargo, loro non possono combattere con le dovute maniere i terroristi e non possono fare in modo che la Libia abbia una democrazia compiuta, perché in Libia c'è il governo di Tobruk, quello riconosciuto internazionalmente, e poi ci sono i fratelli musulmani insieme ai terroristi che comandano altre parti della Libia, ma le comandano perché l'hanno presa con la violenza, con la forza, in quanto le elezioni le hanno perse. E lui dice: se tirate via l'embargo, noi possiamo prenderci le armi, possiamo combattere e facciamo un lavoro per noi, ma lo facciamo anche per voi, perché l'Italia e l'Europa, se noi non riusciamo a vincere questa battaglia, avranno sempre più problemi con i terroristi. Però... E ha citato anche degli stati che appoggiano l'ISIS, che li chiamano Daesh, e i fratelli musulmani, e sono il Qatar, il Sudan, il Qatar e la Turchia, perché hanno anche preso, lui me l'ha detto direttamente, due soldati turchi insieme ai terroristi. Sì, la questione però, e io vorrei tornare a Massimo Fini, è questa. Fini, che cosa non va in questo discorso? Sai che gli americani per tanti anni hanno fatto la politica del sì, quello là sarà anche un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana, quando bisognava finanziare qualcuno che in qualche modo fosse in quel momento il miglior amico o il meno nemico dell'Occidente, no? E infatti è stata una politica sbagliata, perché poi abbiamo visto dove siamo arrivati, no? Il fenomeno ISIS, che adesso tanto preoccupa, che io segnalai molti molti mesi fa a marzo, è frutto di questa realpolitik americana in particolare, ma poi occidentale, per cui si va a ficcare il naso nei fatti altrui e alla fine poi ci si trova con fenomeni tipo ISIS. Intervenire in Libia, cioè bisognerebbe lasciare che le fazioni in campo, dopo aver fatto l'errore gravissimo. Che faccio? Si scannino tra loro? Certamente. E come si scannino tra loro? Ma voglio dire, cioè, come dire, ne rimarranno pochi? No, voglio dire che noi non abbiamo né il diritto né neanche l'interesse, a mio avviso, a intervenire. Cioè, l'abbiamo fatto prima, l'abbiamo fatto con Gheddafi, cosa è successo? Che abbiamo disarticolato completamente la Libia. Okay. Adesso ci sono vaghe milizie in campo, vinca quella che evidentemente ha l'appoggio maggiore della popolazione. Vinca più forte, ma è roba loro, è questione loro. Sì. Però la questione è tutta i riflessi, se vuoi anche il discorso dei diritti umani, se vuoi anche il rischio che ci inondino di immigrati utilizzando anche l'immigrazione, partono da lì come arma di pressione sull'Europa, ci può interessare questa cosa? Ma senti Milan, dubito molto che ISIS ma rischi sui uomini, sui barconi. ISIS arriva con passaporti regolari o è già qui? Anzi, direi che il mare in questo caso in un certo senso ci salva, perché ci fosse una contiguità territoriale, questi con la determinazione feroce che hanno e noi con la debolezza che abbiamo arrivano a prendere il palazzo in inverno in pochi mesi. In pochi mesi. E c'è quello, per esempio, è simbolico naturalmente, no? E non voglio essere, come dire, poco gentile con la nostra polizia, eccetera, ma è simbolico, per esempio, quel fatto di quella nostra motovedetta che da un barcone scarica degli immigrati, eccetera, poi arrivano delle persone armate che non si sa neanche se sono ISIS o predoni, e quelli li lasciano il barcone. Lì sì, si deve sparare. Non in altri casi, però Buonanno, il messaggio del generale Haftar, di cui ripeto oggi c'è un ottimo profilo di Alberto Negri sul Sole 24 Ore, racconta di una persona molto controversa, è stato prima con Gheddafi, poi ha voltato le spalle a Gheddafi, è dovuto stare 20 anni negli Stati Uniti in esilio, adesso è tornato. Cioè, perché dovremmo fidarci di una persona così, Buonanno? Beh, perché intanto il governo di Tobruk è stato eletto democraticamente. Io ho incontrato anche il Parlamento, che ha il Parlamento nella base navale di Tobruk, parlamentari, tra l'altro ci sono anche 23 donne parlamentare, quindi questo significa anche che la Libia è un passo in avanti rispetto ad altri paesi arabi. Ma è l'unico, e lì in Libia è riconosciuto l'unico che può davvero risolvere il problema. È quello che diceva Massimo Fini sui terroristi, io sono completamente d'accordo con lui, secondo me ce l'abbiamo già anche in casa, ma il fatto che questi non hanno nessun problema a farsi anche saltare per aria, li imbarcano anche con i clandestini. Tra l'altro il ministro della salute libico, ma perché dovrebbero imbarcare con i clandestini? Guardi che hanno più soldi, alcuni, per farli arrivare tranquillamente con gli aerei. Certamente, ma siccome ne hanno di tutti i tipi, ci sono anche quelli che dicono tu imbarcati lì e poi vediamo cosa riesci a fare. Perché ce ne hanno tanti, perché c'è tanti arabi che odiano l'Occidente. Il ministro della salute libico mi ha detto che i clandestini che arrivano anche da noi, che passano per la Libia, sì, arrivano ovviamente dal centro dell'Africa, eccetera, gran parte di loro muoiono durante il tragitto, ma dice che ci sono delle percentuali intorno al 50% di malati di AIDS e una percentuale simile anche per l'Ebola. Dice, per fortuna, lui dice, questi che camminano per migliaia e migliaia di chilometri purtroppo muoiono per circostanze di difficoltà e la malattia, sì, che hanno. Ma chi non ha niente da perdere, sì, però chi non ha niente da perdere ci prova in tutte le maniere, perché non ha niente da perdere. Quindi voi dovete fare molta attenzione, perché se noi non riusciamo a gestire la Libia, il problema ce l'avrete anche voi. Se voi ci aiutate, il problema a questo ve lo risolviamo. Ma questo è il dilemma. Buon anno, per concludere con lei, poi la lasciamo dopo la pubblicità, vogliamo parlare anche un po' del libro di Fini. Sa che c'è chi scrive, ma perché non se lo sono rapito, ci scrive in questo momento via SMS. Mi è andata bene anche, però devo dire, ma dai, le bandiere ma perché il Kalashnikov a tracolla? Ma cosa voleva fare? No, perché ho trovato dei soldati e volevo farle foto, però e la bandiera della Lega Nord? Ma è quello per dire che c'è dovuto andare un leghista per smuovere un po' l'Europa, perché casualmente oggi si parla di Libia e di terrorismo che non avevano mai parlato prima, e io sono appena arrivato dalla Libia. E altra cosa, che stupidaggine all'italiana, l'Italia aveva riconosciuto e ha riconosciuto lo Stato libico, quello che c'è adesso, sì, di Tobruk, sì, no? E quindi anche Haftar di conseguenza, ma non aveva riconosciuto l'ambasciatore libico a Roma, quando fino a ieri non l'aveva riconosciuto, l'ha riconosciuto ieri, e nei miei incontri dicevano, ma come mai l'Italia ci riconosce come governo, non riconosce l'ambasciatore libico, noi quando chiamiamo, facciamo gli incontri, ci dicono sì, e poi non lo riconoscono e andiamo avanti da mesi. Questo per dire che magari anche uno piccolino come me, che conta uno su tanti, qualcosa ha smosso per fare in modo che ci fosse. Ma lei comunque porterà questo messaggio, che in Libia si va. Sì, porterà questo messaggio a dire: Haftar chiede di togliere l'embargo per la possibilità di armarli, e poi ci penseranno loro a sconfiggere l'ISIS. Chissà se è così. Mi ha detto un'altra cosa, ricordatevi che noi ci ricorderemo di chi ci dà una mano, perché con le questo lo diceva anche Gheddafi, con il petrolio e con il gas, chi ci darà una mano saranno privilegiati. Capito Fini, aiutateci che noi vi aiuteremo, sì. Non va bene, no, come impostazione. Non ha dato buoni risultati. Finora ci ha portato in un... Se posso rapidissimamente una cosa, c'è un problema, diciamo, a monte. Prendiamo i paesi del Centro Africa, con cui non abbiamo contenzioso, no? Non è l'Islam, sì, non è l'ISIS, a parte la Nigeria. Ecco, come mai questi qui vengono verso l'Occidente? Che cosa è successo? Come mai per migliaia d'anni hanno vissuto e alle volte prosperato lì? Perché avevano un'economia, la loro economia di sussistenza, autoproduzione e autoconsumo. È arrivato il nostro mondo, la nostra economia, e adesso questa gente è ridotta alla fame. Se no, uno non si fa migliaia di chilometri nel deserto per avere un cellulare. Il cellulare in realtà è anche diffuso, non è poi neanche il primo segno del benessere lì, però questa è la tua, diciamo, filosofia, se vogliamo, molto antioccidentale. Io ringrazio l'onorevole Buonanno. Massimo Fini sta con noi, parleremo ancora di Iraq, di ISIS, qualcosa del libro di Massimo Fini tra un attimo dopo la pubblicità. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:35, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, insieme a Massimo Fini, intanto sai che Fini distruggono le statue questi dell'ISIS, questa è una cosa terribile, distruggono i patrimoni dell'UNESCO. L'ultimo distrutto è in Iraq, il patrimonio di Hatra. Sì, loro sono iconoclasti e questo fanno. Vedi, tu dicevi prima che sono anti-occidentali, non sì. È che io dimentico, per esempio, in Centrafrica le responsabilità dell'Islam e di questa sua violenza e religione estremamente cupa. Si sono unite due cose, diciamo il totalitarismo occidentale e il totalitarismo islamico, e hanno cominciato col distruggere l'Africa centrale, e poi adesso abbiamo questo. Per esempio, la distruzione delle statue è una cosa terribile. Voglio salutare dall'Iraq il patriarca caldeo di Baghdad, Monsignor Luis Sacco. Monsignor Sacco, buongiorno. Buongiorno. Lei ha lanciato un appello accorato a dire: stanno distruggendo tutto, oltre che uccidendo le persone in Iraq. Perché lo fanno, Monsignor Sacco? Perché vogliono dominare tutto, vogliono presentare o cominciare con una nuova cultura, diciamo, islamica, ma che è un po' strana dell'Islam. Noi abbiamo vissuto con i musulmani dunque 1400 anni, non abbiamo vissuto questo, distruggere la vita, la pietra, la cultura, è tutto, tutto. Dunque, tanta gente è stata mandata fuori delle loro case, ogni giorno c'è uno o due che sono esecutati perché non sono della stessa ideologia, certo. Eccetera. Radono al suolo tutto. Guardi, io glielo faccio anche spiegare agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando, al professor Paolo Mattie, che insegna la Sapienza, è un archeologo di fama mondiale. Buongiorno professore. Buongiorno. Vorrei che lei spiegasse agli ascoltatori il valore culturale di ciò che viene raso al suolo in questi momenti, o in Iraq o anche in Siria. Quello che è successo negli ultimi giorni è qualcosa di assolutamente tragico e direi proprio catastrofico, nel senso che i siti che sono stati menzionati di Ninive, di Nimrud e addirittura di Khorsabad, che sono decenni che non è più scavato, sono tra i siti archeologici più importanti, non del Mediterraneo, non del Vicino Oriente, ma di tutto il pianeta. Sono delle capitali della cultura del mondo preclassico nella nostra regione, diciamo, euroasiatica, paragonabili senz'altro e forse più importanti di Pompei e di Ercolano, per intendersi su che scala siamo effettivamente. Nimrud è stata la capitale dell'impero assiro dall'inizio del IX secolo alla fine dell'VIII, Ninive era la splendida capitale del VII secolo. A Nimrud c'erano 5 o 6 palazzi reali, a Ninive ce n'erano 2, erano ricolmi di sculture che oggi sono al Museo Britannico di Londra in buona parte e al Louvre di Parigi. Però bisogna capire, professore, che cosa è stato distrutto, perché sa, io vi vorrei far sentire un contributo di un onorevole del Movimento 5 Stelle, che non crede, l'onorevole Ciprini non crede a quello che sta succedendo, parla di propaganda americana. Allora ha fatto questo post su Facebook dicendo, per esempio, l'ultimo patrimonio UNESCO, quello di Hatra, non esistono immagini, ci dicono che l'ISIS lo stia distruggendo. Allora sentite, Alessandra Longoni l'ha raggiunta. Di solito abbiamo la stampa e i giornalisti d'inchiesta che ovviamente anche con coraggio, no? Seguono tutti i fronti di guerra, no? Sono pronti proprio a testimoniare sul campo, no? E mi domando perché una città patrimonio UNESCO invece non ci sia stato niente, alcuna informazione, forse da verificare la notizia. E tra l'altro, per quanto riguarda la distruzione della precedente cittadina, mi pare che era quella di Mosul, girano, no? Ipotesi anche che le fossero copie in gesso, cioè non è che cioè basta un'immagine, no? Per poter credere realmente che quello che ci propinano la verità. io non nego che ci sia un fenomeno terroristico ISIS, no? che sta causando morti, eccetera, però magari, certo, io l'ho chiamato psicoterrorismo, ricorda molto l'operazione che si è avuta con l'11 settembre, che era a Putin, adesso è pronto a sbugiardare USA, USA, dicendo che quell'attacco così strano, quel giorno, 11 settembre, sul cielo aereo americano, il più protetto dell'universo, no? Così strano, che poi ha dato la stura per la guerra, ovviamente sempre in Medio Oriente, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è l'onorevole Ciprini del Movimento 5 Stelle. Monsignor Sacco, esistono immagini? Siamo sicuri che stiano facendo quello che dicono che stanno facendo? No, no, non è una propaganda, perché noi viviamo nel concreto, ci sono anche gente lì, musulmani, che scrivono articoli e mandano delle foto. Già una moschea è stata distrutta del profeta Giona, 3 giorni fa il monastero San Giorgio del secolo X, eccetera. Ma anche abbiamo visto delle statue in Ninive e Namrud, questa gente ISIS distruggendo, dunque è una realtà, forse ci sono esagerazioni, ma non so. Questa gente non vuole altre cose che la loro ideologia. E questo non sì. Accettano. Professor Mattia, che effetto le fa sentire una parlamentare pensare, mettere in dubbio quello che tutto il mondo occidentale crede che stia succedendo? Beh, devo dire francamente che è detto in maniera molto singolare per essere usato. A parte l'11 settembre, le solite questioni sull'11 settembre. Però voglio dire, le cose è bene che siano chiare, è giusto quello che è stato detto, che non ci sono finora immagini delle distruzioni a Hatra e a Nimrud, ma le immagini ci sono e sono chiarissime delle distruzioni ai tori alati, a testa umana, che sono degli spettacolari esseri mitici di Ninive, e questo l'abbiamo visto in quel famoso video di 5 minuti del museo di Mosul, e ci sono delle impressionanti visioni, come è stato detto poco fa dal Monsignore, della distruzione del santuario del cosiddetto profeta Giona e di una serie di altri luoghi del mondo islamico che erano dei gioielli dell'architettura islamica dell'undicesimo e dodicesimo secolo. Ci sono le fotografie di com'era poco prima e di che cosa è ridotto, cioè sono irricostruibili, irrestaurabili questi monumenti. Patrimonio erano monumenti perso. Paragonabili al che le devo dire, a chiese medievali di Pisa, ecco, dei veri gioielli che noi abbiamo completamente perduto per questo fanatismo rigorista wahhabita, assolutamente intollerante di ogni dialogo e sicuramente con un odio verso l'Occidente e le fedi e la razionalità cristiana. Sì, che si va a scagliare anche su patrimoni millenari. Io ringrazio Monsignor Sacco e ringrazio il professor Paolo Mattie e torno da Massimo Fini, perché qui ci siamo. Massimo, allora abbiamo raccontato tante cose, le tue posizioni sono abbastanza chiare. Le tue posizioni, io dico anti-occidentali, per magari risintetizzare in maniera molto, molto, molto brutale. Però adesso vorrei ritagliarmi qualche minuto per parlare del tuo libro. Posso dire una cosa? Sì, come no? I tori alati, benissimo. Però non dimentichiamoci che nella prima guerra del Golfo noi abbiamo ucciso 32.195 bambini e nessuno ha alzato un dito. Quindi i tori alati sono importanti, ma i bambini sono forse più importante. Su questo non c'è dubbio. Si intitola Una vita. Massimo Fini ha scritto questo libro. Un libro che io consiglio a tutti. Vabbè, ma io non faccio mistero di raccontare che Massimo Fini è il mio giornalista preferito, pur non essendo d'accordo su molte cose su molte cose che dice, perché è una persona libera che ha sempre avuto il coraggio e si è anche esposto e ha sempre anche pagato professionalmente. In molti casi per quello che hai raccontato. In questo libro tu racconti, come dire, 30, 40, 50 anni di vita, c'è tutto, c'è Berlusconi, Agnelli, De Benedetti, ma c'è anche il giornalismo, Feltri, Ferrara, i grandi giornalisti, c'è la Milano da bere, c'è la Milano dei Travesta, dei Cumenda, e la Milano che si è trasformata. Perché hai voluto scrivere un libro sulla tua vita? Ma perché in realtà fare un'autobiografia è un po' un'azione come si può dire, necrofora, insomma, una specie di de profundis. No, non dire ecco. Così. Ma diciamo che io attraverso la mia vita ho voluto raccontare le trasformazioni antropologiche, sociologiche, culturali, etiche che sono avvenute in Italia, più che politiche, nei 70 anni di vita, perché poi io arrivo a Milano, sono piccolissimo, la vedo sfracellata dai bombardamenti americani. Questa è una chiave di lettura. Poi certo c'è il giornalismo che mi ha permesso di entrare in situazioni in genere non accessibili a tutti o conoscere personaggi. E poi ci sono gli amori, le delusioni, le illusioni, sì, e tutto quanto, che sono esperienze in cui spero il lettore possa riconoscere. C'è anche un po' il calcio, anche se poco, ecco, per esempio molto. Una cosa molto sì, insomma, una delle cose sulle quali non sono d'accordo è pensare per esempio che Van Nistelrooy sia più forte di Marco Van Basten. Un'eresia Massimo Fini, un'eresia, come minchia fai a pensare una cosa del genere? Però insomma lui pensa che Ruud Van Nistelrooy sia il più grande calciatore. Vabbè, sono cose che capitano. Però Massimo, c'è un aspetto profondamente personale. Io so, ieri ci siamo parlati, so che tu non ne vuoi parlare apertamente, ma la vicenda, purtroppo a volte le vicende personali diventano vicende pubbliche, perché tu hai dovuto scrivere su un post sul tuo blog, e la vicenda è stata ripresa in prima pagina dal giornale. Oggi Marco Travaglio, direttore del Fatto, ti fa ancora un accorato invito a ripensarci, perché ti è successa una cosa che vorrei tu raccontassi, se vuoi, agli ascoltatori. Beh, semplicemente sono diventato cieco, per cui semi-cieco, diciamo, o ipovedente, come detto, per usare il linguaggio dei colli torti dei medici, da colli torti dei medici. E quindi non potendo più leggere non posso più scrivere, molto semplice. E quindi ho voluto avvisare i miei lettori perché non pensassero che dietro il fatto che non scrivevo più ci fossero le solite trame o cose del genere. Purtroppo non c'è niente, c'è questa mia malattia, e non vorrei parlarne troppo perché c'è tanta altra gente che è nella mia situazione. Certo. E quindi voglio dire, non è perché io sono un uomo un po' noto che la cosa si deve focalizzare. Ma questo ti fa onore, il fatto però che un grande scrittore, oltre che giornalista, decida di non scrivere più, come se questo tuo libro sia una sorta di sipario. Sì, questo te l'ho detto prima, anche se tu non ci vuoi credere. Questo libro io intuivo che si stava arrivando anche, ecco, forse se vuoi la vera ragione di questo libro, che poi ho scritto soprattutto per me stesso, anche se vedo che funziona, perché siamo arrivati qui, ritorno scrittore giornalista, siamo alla seconda edizione, e beh, perché sentivo che stavo arrivando a questa situazione in cui non avrei più potuto scrivere. Infatti mi è costato moltissimo, proprio in termini di fatica, scrivere in queste condizioni, ecco. Vabbè, io lo so, Travaglio, ma lo sai, ti invita a ripensarci, ma questa è la tua situazione. Hai raccontato, invece non scriverò più. Io Massimo, intanto ti faccio tanto in bocca al lupo, quando vuoi la sei parola, ovviamente sei sempre invitato. Ho perso l'uso della vista, ma non della parola. E infatti non del ben dell'intelletto. E infatti come sai, ogni tanto ti inviteremo. Io intanto ti ringrazio e consiglio a tutti questo libro, Una vita, un libro per tutti o per nessuno. Questo è il sottotitolo del libro di Massimo Fini, edito da Marsilio. Grazie Massimo, ovviamente, per essere stato con noi. In bocca al lupo, ci sentiremo presto. Il traffico 24 mattino. Ciao Italia! Ebbene sì, non ci siamo dimenticati di Ciao Italia, di tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, e continuate a scriverci 24 mattino e radio24.it. Come non dimentichiamo tutti coloro che hanno un lavoro straordinariamente curioso da raccontarci. Scriveteci e noi vi manderemo in onda. Ma oggi voglio salutare Gianluca, buongiorno, anzi ti do del tu perché so che sei giovanissimo. Gianluca, ciao! Ciao Alessandro. Dove ti trovi tu? Adesso io sono a Singapore. A Singapore? Ma sei giovanissimo. Quanti anni hai, Gianluca? Ho ho 17 anni, faccio 18 tra due settimane. Tra due settimane, beh, intanto auguri in anticipo. Che ci fai a Singapore a 17 anni? Stai studiando, immagino. Sì, sto studiando perché l'anno scorso ho fatto un'applicazione per una borsa di studio. Per entrare a far parte di uno dei collegi del Mondo Unito. E allora, i collegi del Mondo Unito sono un movimento di differenti college in giro per il mondo. C'è anche un collegio in Italia, sì, che è a Torino, vicino a Trieste. E sono scuole internazionali. In cui ragazzi provenienti da tutto il mondo hanno la possibilità di... Ma è bellissima questa cosa. Ma tu quindi che cosa stai facendo come anno scolastico? Quindi io starei facendo la quarta superiore. Perché la quarta superiore di che cosa? In Italia cosa? Allora, il programma che faccio si chiama Baccellerato Internazionale. Mm-hmm. E è completamente diverso dalla scuola superiore italiana. Ah, fantastico. Perché, in che cosa? Dimmi le due o tre cose fondamentali per cui si differenzia dal programma scolastico. Fondamentalmente studi l'inglese. E certo. Scegli sei materie. Matematica e inglese sono obbligatorie. E devi scegliere una materia scientifica, una materia umanistica. Una seconda lingua. Uh-huh. E una materia artistica o una seconda materia scientifica. E com'è vivere a Singapore da 17enne? Ma tu, vabbè, sei un po' blindato, immagino, sei in college, no? Sì, esatto, la vita fondamentalmente spendo la maggior parte della mia settimana nel college, perché è un campus grandissimo, quindi io vivo, vado a scuola, faccio sport. Stai sempre lì. Ah, beh, poi c'è lo sport un po' all'americana. C'è anche lì a Singapore, esatto, questa cultura dello sport? Sì, ecco, sì, è una cultura che c'è soprattutto in questo college a Singapore. Ma è bellissimo, Gianluca. Cioè, tu questa esperienza, mi sembra che sei talmente entusiasta, la consiglieresti a tutti coloro che ne hanno la possibilità della tua età? Certo. La consiglierei a tutti perché... innanzitutto amplia moltissimo gli orizzonti e poi hai la possibilità, a parte che hai la possibilità di studiare l'inglese, imparare l'inglese. Sì, ma poi conoscere culture lingua, diverse, poi, persone di tutto il mondo. Scusa? No, dico conoscere persone di tutto il mondo anche. Esatto, sempre. Conoscere persone di tutto il mondo e da realtà completamente diverse. Chi è il compagno più simpatico o la compagna, ecco, mettiamola così, di che nazionalità è? Cambogiano. Cambogiano. Come si chiama? Si chiama Hai. Hai, ciao. Ciao, sì, è facile. Esatto. Facile l'inglese. Esatto. Gianluca, io ti devo salutare. Sei stato simpaticissimo. Grazie. Ovviamente tanti in bocca al lupo, ma pensi poi di tornare in Italia finiti gli studi o viaggerai per il mondo? Dipende dall'università che farò, ma vorrei viaggiare ancora. Ma che straordinario. Gianluca, sei bravissimo, fai molto bene e con te chiudiamo questa puntata con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni e il nostro Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domani 6:30 24 mattino.